in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. L'ultimo sabato di febbraio ci siamo in questo strano anno bisestile. Mi sono sempre chiesta, e chi è nato il 29 febbraio in che strana condizione si pone? In ogni caso, insomma, anno bisestile, quindi oggi 29 febbraio, ultimo sabato di febbraio, vorrei iniziare questa nostra rassegna stampa internazionale dalla copertina del New Scientist, che è un settimanale britannico di divulgazione scientifica, ma molto, molto alta. La copertina si intitola la Cool Minds, cioè menti tranquille, perché cool significa fresco, però se è usato in modo figurato vuol dire stare calmi, no? Stay cool, stai calmo. Poi significa anche una cosa piacevole che ci diverte, però in questo caso è proprio stare calmi. E all'interno c'è un lungo articolo sui segreti delle persone who never get stressed, che sembrano apparentemente non essere mai stressate. Lo consiglio a tutti, questo articolo lo trovate anche online. Poi io non so, secondo me ci si nasce. Non credo che, specie per persone come me che hanno superato la soglia dei 50 anni, non credo che si possa imparare, e io in realtà non ho una cool mind, mi faccio stressare abbastanza facilmente. Un altro articolo interessante richiamato in copertina è quella sulla carne cresciuta in laboratorio, quindi l'alternativa alla carne che viene da animali da allevamento. E naturalmente su questo, anche perché è tutto un percorso che è solo all'inizio, ci sono pareri discordanti, e il New Scientist si chiede con un punto interrogativo: effettivamente ormai ci siamo arrivati, ma è veramente il modo per salvare il pianeta, visto che agli allevamenti intensivi si attribuisce la responsabilità di molte delle emissioni che riscaldano poi il pianeta? È una domanda, appunto, per chi fosse interessato, gli articoli sono all'interno. Come potete immaginare, questa è stata la settimana, nei primi giorni, in cui l'Italia era su tutti i giornali internazionali o quasi, soprattutto per l'emergenza che era scattata, lo ricorderete, non venerdì ieri ma il venerdì precedente, con i primi casi in Lombardia, l'istituzione della zona rossa e poi le decisioni a catena, per esempio di interrompere due giorni prima della fine ufficiale il Carnevale di Venezia. E così tantissimi quotidiani tedeschi, francesi, britannici, ma anche americani, anche il New York Times, avevano messo in prima pagina le foto, appunto, di Venezia, con le persone con le mascherine e poliziotti e carabinieri che facevano i controlli. Alcuni quotidiani tedeschi hanno messo in prima pagina anche le foto con carabinieri alle loro spalle, i cartelli che indicavano l'ingresso nei paesi delle zone rosse in Lombardia e in Veneto. Poi però l'attenzione è scemata e non ci sono state particolari critiche all'Italia, ce le siamo quasi fatte più da noi che dall'esterno, però l'attenzione è scemata, anche perché poi a catena il coronavirus è diventato un'emergenza in tutti i paesi e quindi anche è finito sulle prime pagine di tutti i giornali. Il Washington Post di ieri faceva un collage in prima pagina, oltre naturalmente a dare notizie interne americane, quindi da una parte le primarie dei democratici stasera ci sono, quindi domani avremo i risultati noi in Italia, stasera ci sono quelle del South Carolina e poi martedì c'è il Big Tuesday, con tanti stati che scelgono il loro candidato democratico per sfidare Donald Trump. Ma quindi, oltre a queste notizie, alle notizie sul coronavirus, sulle misure annunciate da Donald Trump per una task force guidata dal vicepresidente Mike Pence, Washington Post ha fatto un collage di quattro foto, una di queste scattate a Piacenza, la foto di una tenda della protezione civile, poi c'erano quelle di Tokyo, dell'aeroporto di Tel Aviv con tutte le persone con la mascherina, e poi di un trader con una faccia decisamente disperata alla borsa di New York. Quindi questo era un collage in prima pagina. E ieri invece il Daily Telegraph, che nei giorni precedenti aveva a sua volta pubblicato foto di Venezia, Daily Telegraph è un quotidiano britannico, ha pubblicato una grande foto di Papa Francesco, perché l'avrete forse sentito, il Papa ha parlato di un tema su cui era già stato in altri momenti, ma ci è tornato con particolare convinzione, che è quello di evitare di usare i social network, innanzitutto di usarli troppo, ma soprattutto di usarli per propagare messaggi di odio, di violenza, di intolleranza, di insofferenza. ci ha detto piuttosto leggete la Bibbia, magari anche pensava in forma digitale, ma comunque insomma leggete cose che inducono alla fratellanza e non all'odio o all'insofferenza, forse ancora peggio all'indifferenza. La Süddeutsche Zeitung invece, come dicevo, ognuno ha i suoi problemi. In Germania, sapete, c'è questo problema della CDU, che è il partito a cui appartiene Angela Merkel, un partito profondamente in crisi. L'ultimo test elettorale locale, quello di Amburgo, batosta incredibile per la CDU, il peggior risultato da 70 anni. Questo però non è legato solo alle dimissioni di Annegrete Kramp-Karrenbauer di 3 settimane fa, che era stata scelta, era la delfina di Angela Merkel, scelta per guidare la CDU, mentre Angela Merkel restava, che precedentemente era stata lei presidente della CDU, restava solo, si fa per dire, cancelliere. Adesso si cerca un successore, sarà quasi certamente un uomo, una corsa a tre, e però non c'è armonia all'interno del partito, e quindi è stato indetto un congresso nazionale, ne parla la Süddeutsche Zeitung, per il 25 di aprile, e vedremo un po' da qui al 25 aprile, coronavirus, crisi da coronavirus permettendo, come arriveranno i vari membri della CDU accreditati come successori di Annegret Kramp-Karrenbauer. Oh, interessante anche l'intervista che invece Luigi Di Maio ha concesso a Le Monde, uscita nel giorno in cui il presidente Macron era qui in Italia, a Napoli per la precisione, per una visita ufficiale. Il ministro degli esteri non ha evitato la domanda sui gilet gialli circa un anno fa, insieme, lo ricorderete, a Di Battista, che adesso è un po' sapete che Di Battista non ha incarichi ufficiali né all'interno del Movimento 5 Stelle né soprattutto in Parlamento, non è un parlamentare, però è comunque una figura di spicco del Movimento 5 Stelle. Circa un anno fa, appunto, insieme a Luigi Di Maio, che all'epoca era ministro dello sviluppo economico e del lavoro, nonché vice premier, era andato in Francia per incontrare gli esponenti, alcuni capi, sapete che non c'è mai stato un solo capo dei gilet gialli, in un momento in cui c'erano grandi disordini in Francia, quindi la cosa non era stata apprezzata da Macron. Ora sappiamo che Luigi Di Maio ha cambiato appunto ruolo, e in questa intervista parla di quello, e dice una cosa del passato, non dice la parola errore, ma forse si potrebbe quasi pensare a un mea culpa, e poi naturalmente torna sull'importanza di rafforzare le relazioni tra Francia e Italia, e stigmatizza la proposta di Marine Le Pen, peraltro comunque anche stigmatizzata dallo stesso presidente Macron, di chiudere i confini francesi agli italiani. Un tema, certo, ci sono, la crisi da coronavirus spaventa tutti, le notizie sono tante, noi le raccontiamo, ma ci sono anche tante altre crisi nel mondo. C'è naturalmente la guerra in Siria, 1 milione di profughi, ci sono i disordini in India, ne hanno parlato tantissimi quotidiani. Trump ha fatto una visita di stato ufficiale che è durata 3 giorni, poi praticamente nel giorno in cui lui se n'è andato e poi nei giorni successivi sono scoppiati dei disordini a New Delhi, un bilancio provisorio di 30-40 morti e centinaia di feriti. Questa è un'altra crisi. Financial Times giovedì la metteva in prima pagina, ieri invece lo faceva Le Monde. E poi c'è un'altra crisi, che è quella dell'invasione delle locuste in molti paesi dell'Africa orientale. Secondo la BBC causerà la peggior crisi umanitaria della regione degli ultimi tempi, perché naturalmente le locuste, per esempio, quando sono da poco arrivate nel sud del Sudan e hanno distrutto i raccolti, hanno devastato colture e pascoli. E secondo gli esperti il numero dei parassiti potrebbe crescere di 500 volte quello attuale prima di giugno, quando inizia il clima secco che aiuta a frenare la diffusione di questi insetti. A proposito di fenomeni diciamo naturali e legati al clima, perché secondo alcuni scienziati anche questa invasione di locuste è in qualche modo legato ai cambiamenti climatici, El País invece, ma anche altri quotidiani spagnoli, ha parlato diffusamente di questa violentissima tempesta di sabbia proveniente dal Sahara, che si è abbattuta qualche giorno fa sulle Canarie, sull'arcipelago delle Canarie, e sono stati interrotti i collegamenti aerei, chiusi molti alberghi. Chiudo con una segnalazione da Financial Times, che in realtà è doppia, da Financial Times e da Wall Street Journal, perché entrambi questi due grandi quotidiani economico-finanziari si sono occupati di TikTok, che è questo social, appartiene a un'azienda cinese che si chiama ByteDance. Secondo Financial Times potrebbe presto quotarsi alla borsa di Hong Kong. È un colosso perché crescono gli utenti, è presente già, pensate che è stato lanciato solo nel 2018, ma è già presente in 150 paesi, ha 800 milioni di utenti, 300 milioni dei quali fuori dalla Cina e alcuni anche in Italia. C'è già un nome per questi utenti, sono i TikTokers, è un social dove si mettono dei brevi video ed è appunto un caso di successo di uno di quegli unicorni digitali che potrebbe presto sbarcare anche in borsa. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.